La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici all'ascolto, Franco D'Assisti in studio, questa è La Rosa Purpurea, l'ora settimanale di cinema di Radio 24, settimana pienamente autunnale con tanti film per il pubblico di tutta Italia, per tutti i gusti, con proposte molto varie nella loro composizione. Noi come sempre ne abbiamo scelte alcune, quelle che ci sembrano le più consigliabili o quelle di cui parlare assolutamente, ma avremo anche una puntata nella quale parleremo del Festival di Roma che si è concluso, diciamo così, da poche ore, e parleremo anche di una insolita iniziativa, una mostra sui baci nel cinema, sui baci immortalati dalle grandi locandine cinematografiche. Insomma, come sempre ce n'è un po' per tutti i gusti cinematografici qui alla Rosa Purpurea. Noi cominciamo con i titoli di testa. Metti di truccare l'ampolla col seme che feconderà la tua migliore amica e di diventare padre segreto di suo figlio. È quel che succede in Due cuori e una provetta, la nuova commedia con Jennifer Aniston e Jason Bateman. Il passato ritorna, Tony Servillo, protagonista di Una vita tranquilla, nei panni di un ex camorrista inseguito dai fantasmi della sua vita sbagliata. Ne parliamo con il regista Claudio Cupellini. Cinema, una storia di baci. All'Atelier Gluck, spazio arte di Milano, una mostra celebra i baci più belli della storia della settima arte, attraverso locandine, foto e cimeli. Da Rodolfo Valentino a Silvio Muccino. Martin Scorsese, protagonista in TV, a Roma ha presentato Boardwalk Empire, il suo nuovo serial ambientato nell'America degli anni 20, e nei palinsesti delle TV italiane un paio di capolavori firmati dal maestro italo-americano, Quei bravi ragazzi e Taxi Driver. E allora, questo è il menù della Rosa Purpurea di questa settimana. Noi cominciamo subito in commedia, la mettiamo subito in burla, si potrebbe dire. Beh, non solo, perché il tema è quello, diciamo così, ricorrente ormai di questi tempi, da alcuni anni a questa parte, dei figli in provetta, delle gravidanze appunto che nascono non da un'unione fisica ma da un'unione scientifica, potremmo dirla. E allora, su questo tema lavora Will Speck insieme a Josh Gordon, i due registi di Due cuori e una provetta, titolo originale The Switch, dove questo switch è quello appunto che abbiamo anche raccontato nei nostri titoli di testo, ovvero di un uomo che a un certo punto, vuoi perché il suo tasso etilico è particolarmente alto, trucca, diciamo così, il seme che dovrà fecondare la sua fiamma di una volta, che è Jennifer Aniston, la coppia di quelle importanti in questo genere di film di questo periodo, appunto Jennifer Aniston e Jason Bateman. Noi abbiamo chiesto alla nostra Chiara Pizzimenti di andare a vedere e di raccontarci questo film. Voglio che tu sia il primo a sapere che avrò un bambino. Sei incinta? Ancora no, ma ci sto lavorando. Un party per l'inseminazione. Solo Cassie farebbe una cosa del genere. Sono Roland, il donatore. Io sono il miglior amico di Cassie. Eccolo qui l'inusuale triangolo. Cassie, Jennifer Aniston, è una single quarantenne che non vuole più aspettare l'uomo giusto per avere un bambino. Ormai le basta il donatore giusto. Per questo annuncia al suo migliore amico Wally, Jason Bateman, che è pronta alla gravidanza. Il terzo incomodo è Roland, Patrick Wilson, il padre in provetta, solare e sportivo quanto Wally è pessimista e malinconico. Perché non l'hai chiesto a me? Sei un po' nevrotico. Una chance con Cassie l'hai avuta e l'hai sprecata. Per lei sei un amico. Wally, non ti sopporto quando bevi. E Wally beve molto alla festa per il lieto evento. È così ubriaco che scambia, The Switch del titolo originale, il contenuto della provetta con la donazione di Roland. Ma non se lo ricorda. Cassie rimane incinta, se ne va nel Minnesota, tornerà a New York solo 7 anni dopo. Tesoro, lui è zio Wally. Ciao. Ciao, Sebastian. Credo di avere la ciclotimia. Che ti avevo detto, basta guardare Dottor House senza di me. Ci sono delle coincidenze e una certa somiglianza. Le somiglia molto. Non penserai che io abbia scambiato l'ingrediente di Roland con il mio? Ai! È assurdo, ho dirottato la gravidanza di Cassie. Una mossa da maestro. Scontato dire che Wally si affezionerà al piccolo Sebastian e che si ritroverà innamorato della sua migliore amica. And if I do run away from this life, there won't be much for me in the afterlife. L'idea e i primi 20 minuti del film vengono da un racconto, Buster, dello stesso autore delle Vergini Suicide, romanzo da cui fu tratto il film di Sofia Coppola. Il resto è declinato nei toni della commedia romantica convenzionale, nei dialoghi e nelle situazioni, compresi il trionfo finale della famiglia tradizionale e la presenza degli amici dei protagonisti, Jeff Goldblum e Juliette Lewis. I produttori sono gli stessi di Juno e Little Miss Sunshine, ma manca l'originalità di quella pellicola. Il tema è simile al recente Piacere sono un po' incinta. Gli interpreti però aiutano a rendere gradevole il film, in particolare il confronto crescita fra il piccolo Thomas Robinson nel ruolo di Sebastian e il suo futuro padre. Il bimbo è lui anche. Una bufalante. Non sa di niente. Pensavo fosse divertente, invece non è neanche divertente. Un tema di attualità e poi molto, molto carino, ironico e comunque con un filo drammatico. La tenerezza. È leggero, però è anche molto, molto dolce. Mi ha messo di buon umore, lieto, lieto fine, una storia carina, rilassante. Mi ha messo di buon umore, rilassante, tranquilla, sì. Insomma, avete sentito, pubblico diviso all'uscita dal cinema, chi parla di buffonata, chi parla di film tranquillo, sereno, che mette di buon umore, insomma, poi diteci la vostra. Come sempre vi ricordo che il nostro indirizzo di posta elettronica è larosapurpurea@radio24.it, non è lì solo per giocare, e lo faremo anche questa settimana, come sempre, con i nostri splendidi film in Blu-ray che vi proponiamo di settimana in settimana, ma anche per dirci la vostra sui film che andate a vedere nel weekend. A proposito di weekend, a proposito di box office, c'è stato il salto, il cambio della leadership nella classifica degli incassi in Italia, perché lo avevamo detto la settimana scorsa dicendo chissà se Maschi contro Femmine potrà riuscire a scalzare Benvenuti al Sud dalla vetta. Ebbene, è successo così. Primo weekend importante per Maschi contro Femmine di Fausto Brizzi, con 3 milioni di euro incassati, e secondo posto adesso per Benvenuti al Sud di Luca Miniero, che però ne ha portati a casa, dopo ormai parecchie settimane dalla sua uscita, ben 1.800.000 nel weekend, ed è arrivato a un totale di 23.600.000 dall'inizio dell'anno, il maggior incasso di questa stagione fino a questo momento in Italia. Chiaramente cifra che è suscettibile di ulteriori miglioramenti, aggiornata alla scorsa domenica. Terzo posto per Cattivissimo Me, quarto per Salt di Philip Noyce, ed è una new entry al quarto posto, 750.000 euro di incasso. Poi via via gli altri film, dalle Winx a Wall Street, che tiene duro, che però ha un incasso globale forse leggermente sotto le aspettative della distribuzione, siamo intorno ai 2 milioni di euro dall'inizio del suo sfruttamento, e via via tutti gli altri. Ottavo posto per La leggenda dei guardiani, Il regno di Gaul, di cui avevamo parlato anche in questo caso la scorsa settimana. In America invece c'è al primo posto un film che è insomma un horror di quelli da saga, che chiaramente richiamano uno zoccolo duro di pubblico, soprattutto nel primo weekend. Si tratta di Saw in 3D, anche in questo caso. Secondo posto per Paranormal Activity, un altro horror. Terzo posto per Red, il film di Robert Schwenke con un cast davvero stellare. E poi Jackass in 3D al quarto posto. Quinto posto per Hereafter di Clint Eastwood, che come sempre in America ha un pubblico, diciamo così, un po' più di nicchia, spesso non enorme, ma insomma ha un ottimo gradimento. Voglio segnalare il settimo posto di The Social Network, che ha incassato quasi 80 milioni di euro dall'inizio del suo sfruttamento. Questa è la situazione delle classifiche in Italia e negli Stati Uniti. Proposta italiana, la più importante ma anche forse l'unica, così a occhio e croce, di questo fine settimana, sicuramente è quella di cui parlare, perché il film in questione è Una vita tranquilla di Claudio Cupellini, un noir che già per l'Italia, se non è una notizia, poco ci manca. Un attore che è l'attore in questo momento del cinema italiano, ovvero Tony Servillo, e un premio fresco consegnato proprio, ne parleremo anche dopo con Marta Cagnola, consegnato a Roma per la migliore interpretazione di questo Festival di Roma che si è appena concluso. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per portare al cinema il pubblico, e forse anche il grande pubblico in questo caso. Boris Sollazzo, partiamo proprio da qui. Le aspettative di questo film, che fra poco racconteremo, potrebbe ripercorrere i percorsi appunto della La ragazza del lago, tanto per dire, un film che era partito con un clima un po' simile, poi pian piano era diventato un grande successo anche a livello commerciale? Io credo di no, devo dire, perché secondo me è uno scalino al di sotto della Ragazza del Lago, sia commercialmente che come valutazione, diciamo, autoriale. Di sicuro potrebbe avere fortuna, purtroppo non è partito benissimo, almeno al box office, ma questo anche la Ragazza del Lago aveva avuto questo problema. E allora andiamo a trovare un po' il clima del film in una clip che abbiamo isolato dal trailer per poi parlare e raccontare in breve la storia, la trama di questo film. Sentiamo. Come sai che quello che ho fatto l'ho fatto solamente per voi? Ci ho messo 15 anni a rifarmi una vita, ma non mi sono mai scordato di te. A quel tuo collega che gli hai detto? Siamo cugino di mamma. Faccio stare tranquillo allora. E fammi sentire, che fai stasera, Boris? Non capito italiano. Pure sta storia di tuo padre non si è mai capito. Anzi, è stata buona. Questa è mia moglie. Cos'hai, non parla mai dei suoi parenti? No, io preferisco quando si fanno grandi. Cazzo ne sai tu di quando si fanno grandi? Se tutto va bene, avrai una vita tranquilla. Insomma, è la storia di una redenzione impossibile, la storia di un passato talmente ingombrante da ritornare anche quando cerchi di scappare da questo passato, Boris. Assolutamente sì, anche se non ti perdonerò mai per aver isolato la clip in cui c'è Boris Doris, che è diventato purtroppo per me un'ossessione. Beh, non potrai più sopravvivere dopo questa cosa, sei diventato Boris di Servillo, certo. Conosci i nostri colleghi e sai bene che cosa sto passando. Detto questo, appunto, è una redazione impossibile. Dopo tanti film, soprattutto americani, che ci dicono che la seconda possibilità è possibile, una vita tranquilla ci dice che in verità non lo è. In questo senso c'era anche un film al Festival di Roma con Romain Duris simile, dove la seconda possibilità sembra arrivare, sembra sbocciare, sembra dopo 15 anni realizzare appunto quella vita tranquilla di quest'uomo che ha un passato torbido, difficile, da cui è fuggito, ma in verità insomma invece la vita non tranquilla ti viene a cercare e ti viene a devastare quella che ti sei costruito. È insomma un film non molto ottimista, un film a mio parere nella prima metà molto bello, quando rimane nella sfera intima di questo Tony Servillo, che ha meritato il premio perché è uno straordinario attore, non è nella sua migliore interpretazione, ma comunque un Servillo anche d'ordinanza dà una pista a tutti gli altri attori. E poi quando si tratta di fare il salto di qualità sia a livello di sceneggiatura, di svolta di sceneggiatura, sia a livello di regia, sia a livello di storia, lì il film insomma rimane un po' strozzato, non riesce ad andare avanti, non risulta troppo credibile e lo spettatore finisce per allontanarsi. Ecco, quello che invece succedeva nella Ragazza del Lago, parlando di Molaioli, che tra l'altro ridirigerà Servillo per il film dedicato al caso Parmalat, che invece andava in crescendo, qui invece c'è una sorta di piano inclinato che rovina un po' il film, dispiace, anche se sicuramente Copellini si dimostra uno dei migliori giovani talenti che abbiamo. Ed è anche meritorio il fatto che Tony Servillo con questi giovani talenti lavora sempre costantemente. Questa è una bella, sono belle scelte, perché farebbe presto un attore così, come dire, a regalarsi solo ai grandi padri, invece è uno che aiuta anche a emergere in questo senso. Hai detto prima dei passati che non ritornano, lo voglio aggiungere, ne parleremo fra poco, anche L'Immortale, film che esce questo fine settimana con Jean Reno. Anche lì c'è un passato tanto ingombrante che la vita tranquilla di Jean Reno viene sconvolta. Evidentemente, insomma, questo è un tema che gira, ci sono ogni tanto dei cicli nei quali i temi si alternano e li troviamo in diversi film, e questo è il caso. Io a questo punto voglio far sentire però l'intervista che Boris Sollazzo ha realizzato durante il Festival di Roma con il regista Claudio Cupellini, ascoltiamo. Claudio Cupellini, Una vita tranquilla, presentato al Festival di Roma. Mi interessava sapere quali erano le tue ispirazioni, come è nato il film. Diciamo che la mia crescita come cinefilo è anche figlia dell'amore che avevo per tutto il cinema americano degli anni 70, e in qualche modo forse un pochino, sarebbe bello se dicesse che gli assomiglia. La verità è che ho cercato di essere il più rigoroso possibile nel raccontare la storia, per appunto essere sempre sul pezzo per quel che riguarda la sceneggiatura e l'interpretazione degli attori. Dopodiché un pochino ci ha aiutati di sicuro il fatto di avere una troupe che era composta sia da italiani, ma anche in alcune figure chiave da professionisti stranieri, ad esempio lo scenografo Erwin Prieb, che aveva già lavorato in The Reader, Kuster e il direttore della fotografia ungherese che si chiama Gergely Poárnok hanno probabilmente portato anche loro una ventata di Europa. Come ha reagito Tony Servillo quando gli hai detto che avrebbe fatto un altro camorrista e per di più all'estero, diciamo esiliato all'estero? Guarda, a dire la verità, la reazione di Tony è stata di grande entusiasmo quando ha letto la sceneggiatura, quindi ci siamo trovati immediatamente a parlare di come sarebbe diventato il personaggio di Rosario, il protagonista, più che affrontare discorsi che riguardassero appunto la camorra o l'essere una persona esiliata come nelle conseguenze dell'amore di Paolo Sorrentino. Io credo che un attore come Tony Servillo non ami ripetersi, ha intuito che questo film conteneva delle cose molto diverse sia dai film di Sorrentino, che comunque io amo, e anche da quelli di Garrone, che amo altrettanto. Tornando al lavoro con Tony Servillo, io ho l'impressione che ultimamente, da attore dimenticato, nonostante fosse un grande attore teatrale, insomma, recitava solo con Martone e neanche come protagonista, adesso sia diventato una sorta di totem, no? Per cui Servillo diventa un jolly da giocare. Per un regista rischia di diventare un problema un attore così bravo? Rischia di invadere il film? Bisogna arginarlo in qualche modo? Guarda, no, essendo un attore molto intelligente che fa anche a teatro il regista, è una persona consapevole che quando si inizia a fare un film con un altro regista bisogna affidarsi, per quanto il regista possa essere giovane o semiesordiente, e non è un attore assolutamente invadente o invasivo, anzi è un attore che si mette completamente a disposizione, e il suo pregio più grande credo sia quello di essere un lavoratore instancabile. Nonostante il talento, quando si dice che appunto il successo è dato da quel 5% di ispirazione, il famoso 95% di traspirazione, ovvero di fatica, ecco, con Tony funziona, perché ha un grandissimo talento, ma è anche un attore che si spende tantissimo. Nel mio caso credo che lui abbia accettato di fare anche questo film perché il ruolo prevedeva un personaggio molto più emotivo e meno rarefatto di quelli che aveva interpretato precedentemente. Queste le parole di Claudio Cupellini alla Rosa Purpura, intervistato da Boris Sollazzo, che salutiamo. Ciao Boris. Ciao Franco e un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. E allora, con Una vita tranquilla noi cominciamo a entrare nel clima del nostro gioco, come sempre, come tutte le settimane, tre clip di un film misterioso, almeno fino a quando non lo indovinate, e una email, un indirizzo di posta elettronica per partecipare, larosapurpurea@radio24.it, e dirci di che film si tratta, come sempre con i vostri riferimenti, perché se vincete, se siete i più bravi e i più veloci del sabato e della domenica, riceverete a casa proprio quel Blu-ray, perché anche in questo caso si tratta di un film in alta definizione. Sentiamo. Va bene, io vado a dormire e dovreste farlo anche voi. Domani passiamo ai pezzi grossi. Avete sentito? Avrete altre possibilità, una seconda, una terza opportunità nel corso della trasmissione. L'indirizzo è larosapurpurea@radio24.it. Servi tu la prima colazione ora? Ma Robert, è la prima comunione della piccola. Non mi dire che gli hai dato un altro giorno di ferie. Oh, solo una settimanina. Il Portogallo non è proprio dietro l'angolo. Non pago dei domestici perché mia moglie faccia tutto il lavoro. Non sarà la morte per una volta, Mi piace ritrovarmi da sola ogni tanto nella mia cucina. Non è né il tuo ruolo né il tuo posto. Tu sei la signora Pujol, non lo dimenticare. No, non lo dimentico, Robert. Me lo ripeto ogni mattina quando mi sveglio. Avete sentito questo simpatico quadretto di famiglia borghese in un interno francese anni 70? E questo è lo scenario, lo sfondo del nuovo film di François Ozon, famoso per Otto donne e un mistero, ma bravo anche da prima, da Gocce d'acqua su pietre roventi in poi. Come in quel film, anche in questo caso Ozon parte da una pièce teatrale. Si racconta della famiglia di Robert Pujol, un ricco industriale che vive in una casa smisurata, che funge da gabbia dorata alla moglie Suzanne, insoddisfatta e un po' sottomessa. Un giorno però gli operai scendono in sciopero, sequestrano il signor Pujol e improvvisamente Suzanne, la bella statuina, da cui il titolo Potiche, che è più o meno in francese il vaso di poco valore che si mette sul tavolo in sala, si trova in mano il carico dell'azienda e della famiglia. Alle prese con le responsabilità si rivelerà una donna di spirito e temperamento e la vita della sua famiglia non sarà più la stessa. Ma no, Robert, te l'assicuro. Dopo i giorni difficili che abbiamo attraversato, no, procede bene. Anzi, benissimo. Sempre dopo uno sciopero, cara Suzanne. In fondo non sei stata troppo maldestra. Ti sei seduta sulla mia poltrona con l'aria da bonacciona. Hai generosamente riconosciuto tutte le gratifiche e tutti gli aumenti. Brava, sei stata notevole. Ora riponiamo i vestiti della direttrice generale nello spogliatoio e torniamo alle attività familiari e domestiche. Temo ci sia un malinteso tra noi, Robert. Insomma, chi è il padrone qui, Cribbio? Io. François Ozon prosegue con il suo tocco registico scanzonato e irriverente, il suo lavoro sul ruolo delle donne, protagoniste sornione della nostra vita, agnelli in grado di trasformarsi in tigri. Ozon torna a lavorare con la sua attrice del cuore, Catherine Deneuve, strepitosa nei panni un po' sgualciti della casalinga forzata, e le rimette di fianco quello che fu l'uomo della sua vita, Gérard Depardieu, nel ruolo del capo sindacalista pieno di buonsenso. Chi è? Colui che ha fatto liberare tuo padre. Quell'uomo qui. Come, sei tu che... Sì, sono io. Ma è il diavolo! Signora Pujol, buongiorno. Benvenuto, deputato sindaco, e grazie per il suo intervento di stanotte. Allora, i delegati sindacali considerano che liberando Pujol hanno fatto il primo passo. Non si possono rimandare le trattative. Esigono una risposta immediata. È che mio marito non è molto in forma stamattina e può darsi che domani, dopo una notte di riposo, possa ricevere visite. Mi prende per il culo? No, le giuro, è la verità, ma diglielo, Laurent. È vero, mio padre è molto debole, gli occorre riposo. Le serve un altro certificato medico? Ascoltate, è in gioco la mia credibilità. Se ho difeso la causa del padrone, è per meglio difendere quella dei lavoratori, non scordatelo. Se le trattative non verranno rapidamente iniziate, ve lo predico, ci sarà un inasprimento dello sciopero. E io ti predico un calcio in culo, sì! Ma tutto il cast è rappresentato da numeri uno della commedia francese, da Fabrice Lucchini e Sergi Lopez sul fronte maschile a Judith Godrèche e Karine Viard sul versante femminile. Dopo l'anomalia surreale di Ricky, il cinema di Ozon torna a essere rutilante, colorato, anarchico, musicale. Un cinema da godere. Terza parte della Rosa Purpura, abbiamo un altro film, un'altra novità dal cinema di cui parlare, un altro film francese che appartiene, come dicevo, a un altro filone robusto del cinema d'Oltralpe, il polare, il poliziesco, il film di gangster, preferibilmente marsigliesi. Ed è proprio nella città del sapone che si ambienta questo film, L'Immortale, dove l'uomo del titolo è Jean Reno, ma entriamo nel clima con un estratto del trailer. Aveva una vita perfetta. Una famiglia perfetta. Ma il passato non si cancella. E la famiglia che si era lasciata alle spalle non avrebbe dimenticato. Ho perdonato. Eh sì, la vita di Charles Mattei, oppure Charles Mattei come sarebbe stato nominato in Francia, era tornata perfetta dopo che si era ritirato dai suoi loschi affari. Viveva la sua Marsiglia come un signore, si dedicava al suo bambino e ascoltava l'amato Pavarotti. Così, in una giornata di sole, scese in un parcheggio sotterraneo e fu crivellato di colpi. Tanti, tanti proiettili in grado di affondare una nave, ma lui, Charles Mattei, o Mattei, non morì. Per la mala marsigliese era diventato l'immortale. Il loro unico errore era stato quello di lasciarlo in vita. Ora, per proteggere quelli che ama, dovrà essere pronto a tutto. Uscito dall'ospedale, Charles aveva capito che i grandi cambiamenti della sua vita dovevano aspettare. Aspettare il regolamento di conti con la cosca dell'ex amico d'infanzia, Tony Zakia, interpretato tra l'altro dal Calmerad di Giù al Nord, che avevano cercato di ucciderlo. Il duello fra i due si dipanerà fra capannoni abbandonati e agguati in posti inattesi, mentre Charles Mattei consuma la sua vendetta, personale e solitaria, fino al faccia a faccia finale. È vero, magari nell'immortale c'è un po' del padrino, con le famiglie contro i loro riti, un po' di Borsalino, un po' di Scarface, ma gli ingredienti, anche quelli buoni, bisogna saperli dosare e mescolare bene. E Richard Berry, oggi regista solido, un tempo attore di richiamo del cinema francese, si dimostra il cuoco giusto per questo mélange. Azione, sparatorie, ma anche la visione di una Marsiglia crepuscolare e di una mala spietata e senza regole, perché puoi chiudere col passato, ma non è sempre detto che il passato voglia chiudere con te. E questo era quindi L'Immortale, un'altra novità al cinema in questo fine settimana italiano. È stato un grande successo in Francia, vedremo come andranno le cose dalle nostre parti. Seconda traccia del DVD Game di oggi. Io spero che tu abbia avuto più successo di me. Beh, se per successo intendi che i tuoi guai di genitore sono finiti, allora sì. Avete indovinato di che film si tratta? Volete provare a vincere il Blu-ray di questo film? La Rosa Purpura è @radio24.it. Fra poco ci sarà un'altra possibilità. E adesso abbandonate le novità al cinema, le quattro novità che abbiamo selezionato in questa puntata della Rosa Purpurea. Noi andiamo a Roma per parlare del Festival del Film, che si è chiuso da poche ore con un palmarès che ha visto premiato il belga Kill Me Please, commedia grottesca sul tema dell'eutanasia, che ha visto premiato, come abbiamo detto, Tony Servillo come miglior attore per Una vita tranquilla, mentre il premio per la migliore attrice è stato assegnato a un cast e non a una singola attrice, il cast di Messicane del lungometraggio Las Buenas Hierbas di Maria Novaro. Gran premio della giuria Heaven in a Better World della danese Susan Bier, che tra l'altro sta per uscire anche in Italia. Questo è un po' il meglio del palmarès, diciamo, ma noi abbiamo in collegamento Marta Cagnola, che ha seguito per Radio 24 il Festival di Roma. Ciao Marta! Eccoci Franco, buonasera a tutti. Bene, siamo contenti di riaverti qui perché abbiamo per te una missione speciale, ovvero raccontarci quali sono i due, tre film secondo te da salvare di questo festival. Cosa rimane tra le mani, come sempre alla fine di ogni festival, magari non ne rimangono tantissimi di film che porteresti via nella famosa isola deserta. Tu cosa ne pensi? Beh, non ne rimangono tantissimi e devo dirti la verità, diciamolo subito, in questo festival è stato difficilissimo vedere dei film perché le proiezioni sono state spesso saltate, cancellate, la stampa faceva fatica a vederli, però qualche film da salvare ce l'ho. Intanto tu mi hai citato proprio poco fa, quando hai parlato del palmarès, il film di Susanne Bier. A me è piaciuto molto, io ti dico la verità, sono una grande fan della Bier, poi mi piace questo suo sguardo così nordico e femminile. I critici maschi lo hanno stroncato tutti, probabilmente ci vuole un'abilità femminile per amarlo, però devo dire, chi ha amato alcuni film molto nordici della Bier lo apprezzerà molto. Sempre per quanto riguarda il palmarès, Kimmy Please, ebbene, un'atmosfera completamente diversa, però anche lì chi ama lo humor nero, e parliamo di humor nerissimo perché si riesce a ridere di un argomento del quale sembra impossibile poter ridere perché si parla di eutanasia, non se lo può perdere. Peraltro Franco, abbiamo vissuto uno dei momenti più divertenti al Festival di Roma, quello della conferenza stampa del film, perché regista e cast non sono arrivati perché l'aereo era in ritardo, si è presentata Zazie de Paris, ex ballerino dell'Opera di Parigi, ora straordinaria signora leopardata, che ha presentato questo film alla stampa a parole sue ed è stata divertente, esilarante quanto il film stesso, altro film da non perdere. Un altro film che vorrei segnalarvi, anche questo lo vedremo presto ed è stato veramente tanto carino, è stato questo We Want Sex, il titolo potrebbe dare adito a strane interpretazioni, non è un film a tematica sessuale se non per quanto riguarda la parità dei sessi, è un film ambientato nel 1968, nella Gran Bretagna del 1968, nelle rivendicazioni delle operaie che volevano la parità di salario con gli operai maschi, film anche qui, la tematica potrebbe non farcelo pensare, ma davvero tanto divertente. E insomma, allora vuol dire che qualcosa di buono, insomma, come capita, ripeto, a tutti i festival dove su 100, 200 film, ovviamente non tutto è perfetto, non tutto è riuscito, ma insomma ci segniamo questi appunti di Marta Cagnola, che ringrazio per essere stata qui con noi e averci reso così il conto di questo Festival di Roma. Appuntamento più in là, appunto, con i grandi festival, anche qui alla Rosa Purpurea con Marta. Ciao! Alla prossima, ciao! Baciami ancora, baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. E allora, baciami ancora, Jovanotti, una canzone composta e inserita nella colonna sonora di un film omonimo di Muccino, Baci e Film. Perché Baci e Film? Perché adesso la Rosa Purpurea, dopo aver parlato del Festival di Roma, vogliamo parlare di una mostra. Una mostra veramente molto singolare, che si intitola Baciami Stupido, ed è tutta incentrata sul bacio nel cinema. Beh, quante migliaia, quanti milioni, non lo so, di baci si sono scambiati nei film. Però tanti sono finiti sulle fotografie che si espongono fuori dai cinema, le cosiddette fotobuste, tante sono finite sulle locandine, ovviamente, dei film, e hanno immortalato immortalato attimi che poi, visti tutti in fila, fanno davvero una certa impressione. Di questo si occupa, come dicevo, una mostra che sta per aprirsi a Milano, lo spazio Arte Atelier Gluck, in via Gluck, nella mitica via Gluck, quella cantata da Celentano, vicino alla stazione centrale, e che per una settimana vi darà la possibilità di vedere appunto questi baci del cinema sulle locandine e non solo, su tanti materiali. È in collegamento con noi il curatore di questa mostra, Enrico Ercole, che saluto. Ciao Enrico. Buonasera a tutti, ciao. Allora, raccontaci un po' innanzitutto in breve come è nata l'idea di far vedere questi baci, e poi sono fotografie di baci, quindi c'è sempre da pensare, come si diceva sempre, del bacio di Via col Vento, se era un bacio già dato o un bacio ancora da dare, eravamo sempre un po' in sospeso. Questo è il mistero. L'idea è nata perché guardando due grosse collezioni private di manifesti abbiamo notato che il bacio è da sempre il momento preferito di ogni film, immancabile, sia un bacio affettuoso, sia un bacio romantico, un bacio appassionato, profondo, alla francese, stampato, a seconda dei casi, è il momento immancabile di ogni pellicola e molto spesso si guadagna l'onore del manifesto. Allora, l'idea è nata avendo tanti baci famosi da poter esporre, è nata l'idea di fare questa mostra che espone 135 manifesti su cui compare il famoso bacio. Ci sono baci famosissimi come quello di Via col Vento, che è Clark Gable da Vivian Leigh, c'è il famoso bacio di Notorious che per anni si è guadagnato, anche senza doverselo meritare veramente, la nomea di bacio più lungo della storia del cinema, c'è il bacio di Charlton Heston a Liz Taylor in Cleopatra, c'è il famoso bacio oleografico di Senso di Luchino Visconti, e così via baciando fino a passare anche dal bacio un po' malandrino del cinema erotico ai baci simpatici che si scambiano i personaggi dei cartoni animati. Ecco, questo volevo chiederti, Enrico, esistono baci strani, insomma fuori canone, diciamo così, dentro in questa mostra? Sì, certo, c'è il famoso bacio a testa in giù di Spider-Man, che tutti ricorderanno, fra Tobey Maguire e Kirsten Dunst, dove lui arriva a testa in giù e a penzoloni da una ragnatela, e che è un bacio un po' complicato da dare. C'è un bacio un po' particolare che campeggiava sul manifesto di Valmont, dove il cavaliere di Valmont non bacia propriamente una bocca, ma una candida natica, diciamo così. C'è un simpatico, delle simpatiche foto di scena che ritraggono appunto baci più o meno canonici, qualche bacio draculesco con morso sul collo e via dicendo. E allora, ricordiamo, dall'8 al 14 novembre, Atelier Gluck Arte in via Gluck al 45 a Milano. L'ingresso, come sempre nelle mostre dell'Atelier Gluck, è libero, e quindi insomma andate a farvi così una scorpacciata di baci nel cinema. Grazie Enrico Ercole. Grazie a voi, buona serata. Ed eccoci allora a Trailer USA, siamo nella zona, dopo aver zompettato qua e là fra mostre e festival, nella zona dedicata alle novità del cinema americano con i primi suoni originali dei trailer. Oggi parliamo di un film che si intitola Country Strong, con Gwyneth Paltrow nelle vesti di una cantante country alcolizzata. Ormai siamo abituati a vederla poco sul grande schermo, o meglio quasi sempre ultimamente nel ruolo della segretaria di Iron Man. Allora ci facciamo spiegare tutto come sempre dalla nostra Micaela Belisario. Eccomi qua, Franco. Sì, ciao. Dunque, nel film Country Strong vedremo Gwyneth Paltrow nelle vesti di cantante, un ruolo diciamo insolito per lei, che per l'occasione, peraltro ha raccontato in un'intervista, si è fatta aiutare non dal marito, che come tutti sanno è Chris Martin, il leader dei Coldplay, ma addirittura da Beyoncé. Perché? Perché l'ha aiutata, ha detto, a capire cosa significhi cantare di fronte a 10.000 persone. Dunque, la trama è questa. Gwyneth Paltrow interpreta una ex stella del country alcolizzata che tenta di tornare al successo con una tournée dopo un periodo in un rehab, in una clinica per disintossicarsi, un posto peraltro molto frequentato dallo star system, grazie all'aiuto di una stella emergente del country, è una ex reginetta di bellezza diventata cantante, a organizzare i concerti, a fare da manager, e il suo ex marito. In questo passo del trailer proprio lui racconta alla stampa che la ex moglie si è ripresa e sta per iniziare la tournée, a tornare la grande stella che era un tempo. Nashville's Kelly Cantor left rehab early this morning. You'll remember the country music star was arrested a few months ago for drunk and disorderly conduct. We can't wait to get on the road again. We can't wait for the tour to start. Kelly's feeling better than ever. She looks great, doesn't she, guys? Thank you so much. Silver. Naturalmente nel corso di questa tournée succederanno un po' di cose, come logico che sia. Il manager, ovvero l'ex marito di Gwyneth Paltrow, avrà attenzioni per la ex giovane, soprattutto reginetta di bellezza, mentre il cantante emergente diventerà in un certo senso l'angelo custode, forse amante, di Gwyneth Paltrow, che in un momento di sconforto tornerà a bere. Insomma, non sarà facile per il quartetto convivere, e questa è un po' la trama principale del film. Come andrà a finire? Ovviamente, come al solito, non ve lo diciamo. In questo passo del trailer sentiamo invece il marito di Gwyneth Paltrow chiedere al giovane cantante country se tiene in modo particolare alla moglie. You care about Kelly? This is her last opportunity to turn things around. I know you see me like some fire in her. The only place she wanted to be was on stage. E allora ancora insieme alla Rosa Purpurea, la quarta parte come sempre dedicata ai film da vedere sul piccolo schermo per recuperare e, come dire, dare anche un po' una irrobustita alla nostra cultura cinematografica, perché spesso la televisione, anzi sempre, tutte le settimane la televisione, anche in chiaro, anche gratuita, e questo è la nostra teoria, il nostro teorema, anzi, ci offre possibilità di, come dire, migliorare la nostra cultura cinematografica e andare a riempire buchi soprattutto sui film del passato remoto. Lo abbiamo fatto anche questa settimana con un taglio particolare, perché mentre a Roma veniva presentato il nuovo serial prodotto da Martin Scorsese, e che ha anche diretto tra l'altro un episodio intitolato Boardwalk Empire, un film che ha un cast, dico film perché qui a questi livelli non esiste più distinzione, questo è cinema puro, ha un cast strepitoso, Michael Pitt è il protagonista principale, ma è un cast che vede anche Steve Buscemi, Michael Shannon, insomma davvero un cast importante, ambientato negli anni del proibizionismo ad Atlantic City, appunto negli anni 20, e questo sarà Boardwalk Empire. Lo aspettiamo anche in Italia, chissà quando arriverà su qualche rete, ma questo ci ha dato la stura per parlare di Scorsese, perché nella prossima settimana ci sono un paio di film di Scorsese che, se non li avete visti, dovete vederli, e se li avete visti rivedeteli, perché fa sempre bene. Cominciamo subito con la prima proposta. Oggi è con noi dalla redazione del settimanale Film TV Giulio San Giorgio. Allora Giulio. Ciao Franco, sull'onda del successo romano di Boardwalk Empire ti segnaliamo due film di Scorsese. Il primo lunedì 8 novembre alle 23.35 su Rete4, Quei bravi ragazzi, un affresco fluviale sulla criminalità italo-americana in cui il regista analizza contro i canoni del genere la prassi dell'essere mafioso con cui viene educato il protagonista, in una sorta di tragico racconto di formazione a delinquere. Un capolavoro assoluto, uno degli apici del gangster movie, con un cast di altissimo livello e una regia furiosa che crea una sinfonia visiva. E allora questo è Quei bravi ragazzi, lunedì 8 novembre, Rete4, 23.35. Poi però c'è un'altra proposta nel corso della settimana, un altro film tanto diverso ma assolutamente un altro capolavoro. Come dicevamo, altra segnalazione di Scorsese, Taxi Driver, martedì 9 novembre alle 21.05 su Iris. La storia di una giustizia privata di un reduce del Vietnam solo in sonne, a contatto con gli angoli più sordidi di una New York fotografata con una sensibilità espressionistica quasi lisergica da Scorsese, una sorta di ribellione omicida della cattiva coscienza americana post-Vietnam, un ritorno del rimosso con un De Niro che improvvisa il celeberrimo dialogo allo specchio, Palma d'Oro nel 76, un grandissimo film. E allora questo l'appuntamento per Taxi Driver, martedì 9 novembre su Iris, digitale terrestre ma in chiaro e gratuito, alle 21.05. Grazie Giulio. Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. E allora, avete visto, il menù è ricco, per chi ama Scorsese bisogna segnarsi questi appuntamenti sul taccuino, o trovarli appunto anche su Film TV. Per quanto riguarda il Blu-ray Game, siamo alla terza e conclusiva traccia del film misterioso di questa settimana. Ascoltatela bene e diteci di che film si tratta. È un bel disastro. Starei malissimo. Hai perso tutto ormai. Tuo padre, la tua tribù, il tuo migliore amico. Grazie di questa sintesi illuminante. È molto molto divertente. Se avete indovinato di che film si tratta, vi ricordo ancora la Rosa Purpurea @radio24.it per provare a vincere un Blu-ray il sabato e uno la domenica di questo film. Per quanto riguarda vincitori e soluzioni, noi la settimana scorsa avevamo giocato con una saga, non lo avevamo detto ovviamente, ma insomma vi avevamo proposto delle clip, ascoltiamone una, sentiamo insieme. Guardate un po' che cosa è entrato da quella porta. Ehi, non sapevo ci fosse il circo in città. Deve aver preso quella camicia a qualche cinese morto. E allora, avevamo giocato con una saga, perché le tre tracce erano tre tracce dei tre film che compongono la saga di Ritorno al Futuro, che è tornato al cinema, tra l'altro, un giorno per celebrare il suo anniversario la settimana scorsa, facendo 250.000 euro di incasso in una sola giornata in tutta Italia, e che è tornato anche nello splendore del Blu-ray con un cofanetto che mette insieme tutti e tre i film. E con quello avevamo giocato, devo dire, un successo clamoroso. È stato il record assoluto di partecipazioni al nostro game dall'inizio di questa stagione, quindi anche noi abbiamo le nostre statistiche. Record stagionale con Ritorno al Futuro. Evidentemente questo film è nella pelle di tutta una o anche più generazioni che lo hanno amato negli anni 80 e che adesso se lo sono ritrovato anche con clip che, ripeto, ci sembravano non essere particolarmente agevoli. Hanno vinto, sono stati più rapidi il sabato e la domenica, Simone Bonaccini di Reggio Emilia e Massimo Marendon di Ravenna. Restano in Emilia Romagna i due premi che vi invieremo per farci raccontare i contenuti invece di questo cofanetto con i tre film di Ritorno al Futuro. Abbiamo in linea Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, risultato tecnico notevole per tutte e tre le opere, grazie al restauro che è avvenuto in alta definizione. Per l'audio c'è una divertente traccia di TS in italiano, è ancora più dinamica sicuramente l'originale inglese ad alta risoluzione. Ci sono veramente numerose ore di extra dedicate a tutti e tre i film. C'è questa visione dei film contestuale ad approfondimenti, immagini degli storyboard originali, un documentario in sei parti sulla produzione, nuove interviste. Tra l'altro ricordo che il cofanetto Blu-ray della saga di Ritorno al Futuro sarà disponibile in Italia da dicembre anche in un'edizione per collezionisti contenente l'esclusivo modellino dell'automobile DeLorean. E questo per quel che concerne Ritorno al Futuro. Adesso invece abbiamo scelto come sempre un paio di novità e vogliamo cominciare con un film che è un baluardo della storia del cinema, anche se non è uno dei film più semplici, le interpretazioni ancora a 50 anni di distanza si sprecano. Stiamo parlando del capolavoro di Alain René, Leone d'Oro nel 61 a Venezia, l'anno scorso a Marienbad. Vi incontrai di nuovo, non avevate mai l'aria di aspettarmi. Ma ci ritrovavamo ad ogni svolta dei viali, dietro ad ogni cespuglio, ai piedi d'ogni statua, sull'orlo di ogni fontana. Era come se in quel giardino ci fossimo stati soltanto voi ed io. In un sontuoso albergo un uomo e una donna si incontrano, lei accompagnata dal marito, mentre lui cerca di ricordarle che l'anno prima i due si erano promessi amore eterno e di partire insieme. In uno spazio senza tempo si interseca la memoria e il presente, mentre la donna non sembra ricordare quanto accaduto un anno prima ed è al contempo attratta dal misterioso spasimante. Spiazza e disorienta l'universo onirico realizzato da uno dei maestri della Nouvelle Vague, che realizzò questo capolavoro dopo un'altra opera importantissima quale fu Hiroshima Mon Amour. Restaurato e di buona qualità, il DVD di Medusa offre una dignitosa traccia in italiano e un prezioso e recente incontro col maestro Giorgio Albertazzi, che ricorda la sua partecipazione al film. Ci spostiamo invece al 1987 con un cast davvero stellare per una commedia che anche in questo caso ha segnato un'epoca. Stiamo parlando delle Streghe di Eastwick. Lei è sposato? Ottima domanda. Vedi? Cervello. E la risposta è no. Non credo nel matrimonio. Buono per l'uomo, schifoso per la donna. Ne muore. Ne è soffocata. Io l'ho constatato. E allora il marito corre in giro e va lamentandosi con tutti che ormai sta scopando una defunta. Ed è lui quello che l'ha uccisa! Già! Dov'è tuo marito, Alex? Defunto. Nella tranquilla cittadina di Eastwick, Alexandra, Jane e Suki sono tre amiche con un'esistenza rutinaria in attesa che la vita offra loro qualcosa di inaspettato. Finiranno sedotte dal misterioso e affascinante miliardario Daryl Van Horn, sotto le cui spoglie mortali si cela niente meno che il diavolo, che per le tre ha un piano ben preciso. Dal regista George Miller, curatore della trilogia di Mad Max, una storia brillante e divertente, classe 87, tra commedia, horror e satira sociale, cast strepitoso, effetti ottici e di make-up d'eccellenza in un'epoca lontana dalla computer graphic animation. Il Blu-ray di Warner è un gradino sopra rispetto al già edito DVD, c'è molta grana, purtroppo l'audio italiano è lo stesso del DVD in Dolby Digital, superiore l'inglese ad alta risoluzione, come extra abbiamo il trailer. Ricordiamolo questo cast stellare: Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer, Richard Jenkins, davvero straordinario. Grazie a Claudio Poffi, appuntamento la prossima settimana. A presto, un saluto. E con le streghe di Eastwick, con i consigli per le serate in casa, ma sempre con il buon cinema, noi chiudiamo la puntata di questa settimana della Rosa Purpurea. Appuntamento fra 7 giorni, come sempre il sabato alle 18, la domenica alle 15 per chi ci ascolta in replica. Un saluto da Franco D'Assisi.